Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Come along, my dreams become a song. La voce di Beth Hart in questo Baddest Blues. Che cosa c'entra la musica blues? C'entra tantissimo. Forse qualcuno di voi ha già capito di chi sto parlando. Vi do qualche indizio. Blues, Calvados, un uomo che vive, come dire, al limite, al confine fra bene e male, fra criminalità e voglia di giustizia. Beh, l'avete capito, stiamo parlando dell'Alligatore, il personaggio seriale amatissimo di Massimo Carlotto, che ora torna in libreria con Blues per cuori fuorilegge, vecchie puttane, pubblicato da Edizioni EO. Massimo, ci piace sempre tantissimo parlare dell'Alligatore, dei tuoi libri, perché è veramente un pubblico affezionatissimo. Ormai l'hai creato più di 20 anni fa, questo personaggio. Allora, lo descriviamo così, diamo delle coordinate GPS di quest'uomo. Un uomo ossessionato dalla verità, è un uomo che ha un alto senso della giustizia, però è un uomo che vive ai margini, un uomo che è stato anche in galera e che ormai, diciamo, fa delle indagini per conto di altre persone, ma sempre al limite della legalità. In questi più di 20 anni il tuo Alligatore è cambiato? Sì, l'Alligatore è cambiato. Marco Buratti non solo è invecchiato, io non amo l'idea dei personaggi sempre uguali a loro stessi e del mondo che cambia intorno. Ma mi piace proprio posizionare i personaggi nei tempi, nei luoghi giusti, corretti. Quindi, se penso al primo romanzo, che non c'erano i cellulari e c'era ancora la lira, c'erano le cabine telefoniche, adesso invece è proprio il mondo è cambiato. Ma è cambiato anche lui, nel senso che è cambiato profondamente. Lui cerca disperatamente di stare dalla parte giusta della vita, in un mondo dove c'è pochissimo di giusto. Ecco, lui cerca di stare dalla parte giusta della vita, ma si accompagna a due personaggi, Max La Memoria e Beniamino Rossini, mi riferisco soprattutto a Beniamino Rossini, che non disdegnano l'uso della violenza, per esempio. No, sappiamo che Beniamino ha un tot di braccialetti al polso sinistro. A seconda delle persone che ha ucciso. Esattamente, sono i suoi scalpi. Lui pensa che ogni tanto la violenza vada usata, se necessaria, per eliminare qualche cattivo che non capisce, che non intende, insomma, cambiare direzione nella vita. Devo dire che dei tre è l'unico che usa la violenza. Diciamo che l'Alligatore si caccia nei guai, Max lo aiuta a cacciarsi nei guai e poi ci vuole Rossini proprio per salvare la pelle a tutti e tre. In quest'ultimo romanzo, Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane, ritorna una sorta di crossover, non so se si chiami così, insomma, perché ritorna anche la presenza di Giorgio Pellegrini, che il loro acerrimo nemico, cercano di farlo fuori sostanzialmente. Ma in questo caso, in questa, diciamo, puntata dell'Alligatore, loro tre, cioè l'Alligatore, Beniamino Rossini e Max La Memoria, in realtà si trovano a dover indagare, forzati, costretti, sull'omicidio della moglie e dell'amante di Giorgio Pellegrini. Non lo fanno naturalmente per amore di Giorgio Pellegrini. No, però sono profondamente convinti, soprattutto l'Alligatore, di dover rendere giustizia a queste due donne, che sono due donne che sono state usate. E la loro morte non conta nulla in questa storia, per nessuno, conta solo per loro. E quindi loro indagano sul serio, nel senso che vogliono arrivare a rendere giustizia a queste due donne assolutamente innocenti, colpevoli solo di aver incontrato nella loro vita un personaggio come Giorgio Pellegrini. E qui Giorgio Pellegrini gioca sporco in tutti, vabbè, insomma, lo conosciamo, il ragazzo è fatto così, ed è sempre più pericoloso, si allea con la polizia, diventa un infiltrato, è un personaggio orribile, ma soprattutto vuole vendicarsi di Buratti e dei suoi amici. E infatti lo diciamo che i tre si trovano a dover forzatamente, appunto, indagare su questo omicidio, perché vengono in un certo senso ricattati da una donna che fa parte, insomma, dello Stato, da un funzionario del Ministero dell'Interno. Quindi qua si vede anche come Giorgio Pellegrini sia riuscito a entrare nei meccanismi anche della giustizia e dello Stato. Beh, Giorgio Pellegrini è fatto così fin dal primo romanzo. Quando è nei guai si mette sul mercato E dice: chi è che mi può salvare? Dice: sono disposto a fare qualsiasi cosa. E ha fatto così anche questa volta. E quindi ha trovato questa funzionaria del Ministero dell'Interno, la dottoressa Angela Marino, che ha pensato di usarlo in un'operazione di un certo tipo. La dottoressa è un personaggio un po', insomma, un po' sopra le righe, nel senso che è una che, determinata a combattere il crimine con qualsiasi mezzo, ma si confonde su un punto molto importante, sul fatto che lei è un servitore dello Stato e non è lo Stato. Sì, c'è un eccesso, come dire, di un abuso di potere proprio eccessivo da parte sua. Sì, un abuso di potere che secondo me però nella realtà sta diventando un po' una norma, nel senso che è così complesso oggi combattere il crimine che forzare i limiti imposti dalla legge è diventato quasi una necessità per poter affrontare situazioni che normalmente non si riescono ad affrontare. Quindi tu la giustifichi, fra virgolette, perché insomma un autore non è che prende mai parte per un personaggio o per un altro, però insomma il suo meccanismo è qualcosa che può essere giustificato. Secondo me è giustificato nel senso che questo paese deve fare i conti con questo tipo di situazioni, con questa nuova criminalità, però nel rispetto assoluto delle regole, nel senso che per arrivare a risultati molto importanti non ti puoi permettere di tritare vite, di macinare vite di persone che tu ritieni contino poco. C'è anche un aspetto romantico in questo romanzo, lo so, perché insomma l'alligatore, Beniamino Rossini, Max La Memoria, sicuramente appunto sono sempre un po' al confine fra la legalità e l'illegalità, però hanno sempre, come dire, un cuore sempre più tenero, posso dirlo. Più si va avanti nelle storie dell'alligatore, più sembrano intenerirsi tra. È una mia impressione o è così? No, è così. Da un lato si torna sempre più a disagio con situazioni criminali che non riescono a gestire, che non capiscono bene, non è il loro mondo. Dall'altro hanno questo desiderio proprio esistenziale di trovare l'amore, di vivere proprio come dimensione proprio esistenziale di sopravvivenza, è qualcosa di strategico. E però a differenza degli altri due, l'alligatore si innamora ogni piè sospinto. Sì, lui è facile all'innamoramento. Ecco, a proposito di questo aspetto tenero, romantico dei tre, io sottolineo sempre le pagine dei romanzi. In questo caso ho sottolineato questa parte del tuo romanzo. Avevamo un tavolo tutto nostro, bicchiere di Calvados, naturalmente immancabile, grappa e vodka. Ascoltavamo in silenzio, brindando ammirati e persino commossi a quell'amore che avevamo cercato, a volte trovato e poi irrimediabilmente perduto, ma al quale i nostri cuori fuorilegge non erano ancora pronti a rinunciare. E poi in un brano successivo, questo è il pensiero dell'alligatore: da un po' di tempo mi deliziavo cuore e orecchie esclusivamente con voci femminili, forse perché solo il loro blues era in grado di rendere sopportabile il desiderio di innamorarmi. Eh sì, è proprio così, proprio questo desiderio di innamorarsi, avere delle compagne con cui condividere un pezzo di vita. Non è solo una questione rispetto all'età, ma il fatto che tutti e tre iniziano proprio a rifiutare determinate situazioni. Infatti alla fine del romanzo fanno proprio una riflessione su questo. Però ricavarsi una nicchia di esistenza di grande qualità dal punto di vista affettivo è per loro è diventato veramente importante, importantissimo. E l'alligatore per tutto il romanzo è così. Cerca l'amore, poi magari lo trova. Non lo diciamo, diciamo solo che a un certo punto comparirà una donna, Edith, ma non vi diciamo se va a buon fine o no questa storia. A proposito dell'impatto che comunque le emozioni, il desiderio di trovare una compagna di vita ha su questi tre personaggi, mi viene adesso in mente una frase che a un certo punto tu attribuisci a Beniamino Rossini sul fatto che devono indagare appunto sulla morte di queste due donne. Lui è molto più sensibile, è diventato molto più sensibile ai casi di violenza sulle donne per quello che è successo alla donna che lui ha amato nella vita, a Sylvie. Questo è anche un aspetto che tu hai preso dalla cronaca di tutti i giorni. Beh sì, la cronaca di tutti i giorni ci racconta una realtà che è diventata incompatibile con il nostro mondo, con la nostra società, incompatibile con l'esistenza delle persone. E quindi necessita di una grande riflessione. Io soprattutto mi soffermo sulla questione della prostituzione, lo faccio da diversi romanzi, perché io Solo dell'alligatore, devo dire, anche altri romanzi che hai scritto, insomma, c'è sempre questo discorso. Ricordo per esempio la serie che avevi scritto con Marco Videtta sulle Le Vendicatrici, anche lì c'era la prostituzione e lo sfruttamento delle donne. Sì, perché io trovo inconcepibile che questa società non riesca a fare un ragionamento serio, in qualche modo definitivo, sulla prostituzione. Nel senso che noi abbiamo permesso la reintroduzione della schiavitù, della prostituzione. Abbiamo fatto finta che questo non esistesse. Le situazioni poi si sono complicate e la vita di moltissime donne è diventata un vero e proprio inferno. E io credo che questo inferno sia necessario raccontarlo. E la storia di Beniamino nel romanzo, Sylvie, è proprio il volano, no? Per affrontare in un determinato modo queste situazioni. Infatti Beniamino, quando incontra personaggi legati alla prostituzione, perde leggermente la pazienza. Perde la pazienza perché naturalmente ha vissuto sulla sua pelle, soprattutto su quella della sua compagna, che poi lo diciamo perché è già avvenuto nelle puntate precedenti, si era suicidata in seguito appunto alle violenze che aveva, che aveva subito dagli aguzzini di un giro di prostituzione. Dici giustamente che la prostituzione è una riduzione in schiavitù sostanzialmente oggi e spesso si fa finta di non vedere, ma Massimo Carlotto come la pensa sulla riapertura delle case chiuse, per esempio? Potrebbe essere una soluzione o no? Ma io sono assolutamente contrario, e nel senso che la prostituzione non può essere una soluzione per la vita di una donna, in nessun modo. E infatti me la prendo con l'Austria in questo romanzo, che finge una parte ambientata a Vienna, sì, con questi bordelli che vengono inaugurati dai sindaci, perché dice, se parlano apertamente in maniera impropria di prostituzione felice, ma in realtà sono la facciata, ma dietro la facciata c'è un mondo della prostituzione che è terribile e che io racconto attraverso la storia di Edith. E secondo me questo è necessario affrontarlo, no? Non si può veramente, come dicono i personaggi, voltarsi dall'altra parte. A proposito sempre del lato umano e della filosofia di vita dell'alligatore, a un certo punto lui dice: lasciarsi scorrere addosso la vita è il mio modo per riprendere fiato. Lo vediamo spesso l'alligatore che fra un caso e l'altro ha bisogno di pausa, di fermarsi, non vuole che nessuno gli rompa le scatole, non vuole occuparsi di nessun nuovo caso, ha bisogno, come dire, della sua bolla per ritornare a vivere. Perché? Ha bisogno di perdersi, che secondo me non è male come strategia. Ogni tanto perdersi assolutamente da tutti i punti di vista fa bene. Anche l'alligatore è molto d'accordo con me su questo. Infatti, cioè, perché anche tu come Massimo Carlotto ogni tanto hai bisogno un po' di slegarti da tutto, di perderti. Sì, sì, proprio di perdermi. Perché poi ritrovarsi ti costringe a fare il punto della situazione con lucidità. Ecco, lui ma fa che significa per te perderti? Cioè non avere più legami con le cose quotidiane, con la concretezza, con gli impegni? Che cos'è che... Da tutti i punti di vista, nel senso della concretezza, ma anche mentalmente. Per esempio a me serve molto per disintossicarmi la mente da un progetto all'altro. Voglio dire, perdersi, ci sono mille modi per farlo, però l'importante è proprio perdere il contatto con la realtà. Grazie a Massimo Carlotto, ora in libreria con Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane, pubblicato da EO. Grazie Massimo. Grazie a te. E come sempre l'appuntamento sarà per i prossimi libri, perché noi non ci perdiamo un'uscita di Massimo Carlotto. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Il cacciatore di libri. Norman Manea è uno degli scrittori romani contemporanei più noti al mondo. Nel 2002 in Italia aveva vinto anche il premio Nonino. ha vissuto sulla sua pelle la Shoah, il totalitarismo comunista e un doppio esilio. A 5 anni infatti era stato deportato con la sua famiglia ebrea in Transnistria. A 50 anni invece aveva deciso di andare via dalla Romania di Ceausescu e dal 1988 vive a New York. Il suo ultimo libro è Cronache dell'Est, pubblicato in Italia dal Saggiatore con la traduzione di Anita Bernacchia. In questo libro racconta la sua storia, passata appunto attraverso la persecuzione nazista prima e il regime comunista romeno dopo. Ma ci sono anche una serie di riflessioni sul presente, dall'elezione di Donald Trump al terrorismo islamico. Per Norman Manea, la Shoah è soprattutto una sconfitta dell'uomo, non solo un attacco al popolo ebraico. Gigi Donelli ha incontrato Norman Manea. Ecco che cosa si sono detti. Partiamo dalla Bukovina, un nome esotico almeno per me che ci porta non lontano dal centro geografico dell'Europa, oggi a cavallo tra Romania e Ucraina, un tempo parte del grande mondo asburgico. Suceava? È corretta la pronuncia? Suceava, it's correct. E Chernivtsi? Chernivtsi is a Ukrainian name. Il nome ucraino di un paese che in rumeno si dice? Chernivtsi. Insomma, in German, because it was part of the Austrian Habsburg Empire, it was Chernivtsi. Ecco, 3 nomi per una città, 2 capitali, quindi Suceava, Chernivtsi, nei suoi vari nomi, di un paese invisibile. Allora, intanto quello è il luogo della sua provenienza. Cosa le suggeriscono oggi i loro nomi? The places are the same. I luoghi sono gli stessi. Certo, intendo dire che sono più o meno gli stessi luoghi, anche se ovviamente sono cambiati nel tempo. Ma ciò che è diverso, totalmente diverso, è l'appartenenza. Sono luoghi passati di mano molte volte. Dalla Romania alla Bukovina è passata all'impero austro-ungarico, poi è tornata sotto il controllo della Romania, poi è stata occupata dall'Unione Sovietica che l'ha divisa e con il crollo dell'impero sovietico è entrata a far parte dell'Ucraina. Dopo gli anni dell'esilio, sono tornato in Bukovina con un team di cineasti tedeschi alla ricerca della memoria della Chernivtsi ebraica di prima della Seconda Guerra Mondiale. Un luogo che non è nella mia biografia personale, ma che ho amato attraverso mia madre che ci andava spesso da ragazza, che ne apprezzava i teatri, la cultura, ma anche i caffè e il divertimento. C'era un'atmosfera asburgica che oggi è svanita, completamente svanita. Quello che ho visto è piuttosto un luogo ucraino, segnato dalla povertà e dalle difficoltà, che anche a livello della sua antica università aveva perso completamente i legami con la cultura austriaca e tedesca di un tempo. Cultural connection to Austria and to Germany, and this did a lot of good to the university. Un luogo dunque trasformato completamente. Questo per introdurre questo luogo, la Bukovina, appunto, da cui il nostro ospite arriva, nel senso che lì è nato nel 1936, ma lì nell'ottobre del 1941, quando tutti gli ebrei della Bukovina vengono deportati verso la Transnistria. E questo accade anche alla famiglia Manea, al completo. The Jews that were deported at that moment were Jews from Bukovina. Gli ebrei deportati in quella fase erano proprio gli ebrei della Bukovina. Gli altri ebrei che vivevano nell'orbita del regime rumeno subirono le leggi razziali e numerose forme di vessazione, ma non furono deportati in massa. Solo gli ebrei di alcune zone della Transilvania, che era sotto l'occupazione ungherese, furono mandati direttamente ad Auschwitz. La mia esperienza e la mia memoria sono quelle di un bambino di 5 anni che vive una vita felice e spensierata, che è viziato dai genitori e dai nonni tutti, che trascorre un'infanzia felice e che un giorno, improvvisamente, senza che possa percepire cosa gli sta per accadere, si trova caricato a bordo di un treno per animali, schiacciato tra tantissime persone, donne e uomini, vecchi e malati. With a lot of people, young, old, sick, in the same wagon, was really a nightmare. C'è una frase che mi è piaciuta molto, una battuta, antisemita, virgola, ovvero chi odia gli ebrei più di quanto dovrebbe. Ho citato questa definizione ebraica dell'antisemita perché mi sembra perfetta anche per raccontare un po' il clima di quel mondo che lei ha descritto, di quel mondo che andava da Vienna a Berdichev, da Minsk alla sua Bukovina. First of all, the Jewish population in Eastern Europe is radically diminished. La popolazione ebraica in Europa centrale e orientale è radicalmente diminuita. La Romania del 1941 aveva 800.000 abitanti di religione ebraica. Oggi sono forse 3.000. Sono per lo più vecchi che non hanno la forza o i mezzi per lasciare il paese. La situazione è simile in Polonia e negli altri paesi dell'Est. Ma dopo la grande tragedia, molti ebrei hanno scelto Israele e hanno voluto uno Stato nuovo. Lo hanno fatto, e questo ha cambiato non solo la demografia delle mie terre d'origine, ma anche la spiritualità dei luoghi. Oggi ci sono ebrei della diaspora e pochissimi, sparuti ebrei, nei luoghi dove un tempo erano molti. Il crollo dell'Unione Sovietica ha spinto chi rimaneva a partire. La proporzione tra ebrei della diaspora ed ebrei di Israele oggi è praticamente equivalente. The proportion between the Jews in the diaspora and the Jews in Israel is almost equal. E questo era Norman Manea, ora in libreria con Cronache dell'Est, pubblicato in Italia dal Saggiatore, intervistato da Gigi Donelli. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, cercando appunto nella sezione Il Cacciatore di Libri. Se volete sempre essere informati potete seguirmi su Twitter oppure sulla pagina ufficiale di Facebook, che è Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.